Matto, buon pomeriggio. Sempre, ma si mai scende sta radio? Cazzo, nessuno mi ha avvisato, è stata una notte andente, stata. E la sono andata. Pure io qualche notte laggiù a San D'Assiso, alimentatori, cazzo, sì. Può succedere. No, pure a portate a Bessa. Ah, no, no, perché stamattina ce l'avevo accesa e non lo so. Però non si sentiva nessuno. Cappa. No, stamani proprio un bel di cose da fare. Magari domani mattina attendo a chi... Domani mattina mi pare che si fa la platta mola un po' più. Prima mi burro tanta a casa. Tanto non voglio più travagliare, domani mattina mi pare mi fa la rotonda e via. Ah no, non sarà stato Gabrielino che ha acceso il ducino. Secondo me è tu che hai acceso l'abbordante. Può essermi, può essere. Però ti ripeto, ce l'avevo io stamattina accesa la radio sino alle 3 o alle 4. E ogni tanto giravo a MFM 10, 12. Ma non c'era quasi nessuno, dai, non c'era nessuno. E l'ho accesa da me mezz'ora fa e niente, boh, mi era praticamente in un'altra banda e non riuscivo a capire come mai il frequenzimetro mi segnava altri numeri e niente, avanti giù buscia tutta fuori e niente, da voi non esogo questo clima che fa nei vigili onde stazionarie, viene poco maledizione in giro, c'è chimica e clima tutta varione, boh, non si comprende più nulla. Ma cosa hai atteso? Alle 4 di mattino? Che cosa tu? Alle 4 di mattino ma il baracchino atteso. No, la radiolina ho acceso alle 4 e mezzo, quella piccolina dove ascolto la musica e dove c'è, come ti posso dire, dove dice le informazioni del porto di Porto Torres e ha detto stamani che erano in tutti in partenza. Cappa, domani, per l'ennesima volta domani, ma mi sono corrompendo in balle, per l'ennesima volta ho venuto a travagliare. Cazzo Rola, ma come si fa andare avanti così? Io dopo lo telefono glielo dico, cazzo fammi fare qualche cosa in teatro, che calmare giù. Perché io ho bisogno di lavorare, se non è possibile. A chi non lo vede non so più prendere nessuno che sono tutti canti, non lo so, non li comprendo neanche io più. Se sai fare qualche lavoro ti conviene fartelo a conto due senza di nulla nessuno. A chi tanto l'antifora è sempre chi santo. Io voglio parlare adesso col commercialista. Voglio parlare col commercialista quello dove fa i cosi da lavoro, vedo un po' se c'è una soluzione. Quando sono così senza far nulla, mi lo voglio, cioè, me lo voglio ma conto meno. Se c'è una soluzione, cazzo di anno, ma che sono una merda. Cioè, non puoi fare un cavolo, un cazzo di cudinica. Cioè, io dico che lavoro ci vuole per tutti. Quando sì, sì, quando non vuoi travaglio, devi pure arrangiare tu. Cosa, non c'è una quella, no. È un casino a chi, non lo so, a meno che se ne andi a fare giardinieri, a pure in campagna, a pure caffè giardino, non lo so, tu. È una vita un po' strana ultimamente. Proprio con un figlio minore, cazzo mi sono più le spese che mi sommarcano, cazzo che è quello che guadagno. Cazzo, perché ero molto con esso, con i bacoli, cose. Cioè, non mi piace più così, no, non ce la posso fare. Cioè, bisogna che vedere un po' le cose, perché no, non ce la posso fare così, no. Devi trovare, conoscere qualcuno devi conoscere, se no ne compreso, se no non fai a che fare di birra a culo, a che cosa. È un casino ultimamente, un casino, sono tutti dei cani travagli, tutti i gatti sorresi e niente. E non si può andare avanti in condizione. E poi vai a chiedere un aiuto e neanche te ne danno. Sai cos'è un problema? Ah, il problema mio è questo. Il problema mio è cazzo, quando sei sormargato, il telefono comincia a squillare e arriva poi va. Carne invece, come ti dite? La macchina c'è bisogno, la gente non ti gaga, che magari ti danno giunto da me, ma non ti giammo. Capito? Ma io invece devo abitare con un commercialista, cazzo se mi dice, cioè, perché io ce l'ho, ho l'impianto, io ho molta roba, mi faccio un piccolo service, piccolino, cioè per un momento lo trasporto con la mia macchina, cioè, a qualsiasi che, vediamo come fare, di dichiarare pochi soldi, magari altri mi ripiglio niente. Cioè può essere che comincia anche quei gruppi di subimboi e cosa che non c'è, quei comitati e cosa. Cazzo mi prendo qualche cosa e cioè, è in cascio, non preso Oh Anto, e se non mi fai un coso? A tipo gigolo pone l'annuncio e scrivi per accompagnamento signore mature si offrono spostamenti di vario tipo. Allora che per un mese da lì? E allora si chiama che per me una vecchia di settimana tocca portarla anche il lungo e da buio io ed ecco di una carriata. Ma lo sai che tu vieni che si giovanotti va? Dice la regione di nomi a accompagnare una signora di una certa importanza e mi sono convinto di bene e sono grandendo e si fate di bagaccari vedi che prendi pure accompagnatore di gozzo accompagna però chi di che vale la drudra vizzetto o ti chiama accompagnatore di trans dice che si guadagna bene si guadagna e allora poi ma collocare se giova la notte se non i badini andano a fare il camarere o l'umarista e come ti si faceva prima una bocca non c'è più nulla cioè uno non è gioco deve andare nello sindaco e dire che questo da c'è a capo e fa capire in due come se la gnocchi carità la madre deve fare un corso di barma non ti chiama se vuoi poi si travaggi oia in genere cosa faccio il pianto? Io lavoro con me, con la musica, lavoro, ha giocato il bombolaio pure, ma metto un po' di tempo, però anche io, cioè anche loro, sono dei disgraziati, no? Non ti bagare, non preso. Ho capito, ma come sarà di soffendere pare nel nudo, a meno che non sei in un gruppo in qualche luogo. E poi il guadagno, se siete in due o in tre o in quattro muro, è un casino a chi non ne va di peggio tra andani, portare strumenti e piazzare, smontare, e da voi passivi quattro gatti e te non ti danno niente. Ah, quel discorso lì io non voglio manco sentire. No, ma io non ho più di su un anno, io voglio fare piccoli spettacoli, capito? Voglio incominciare così. Chi si cosa la zanza, compreso hai? Cala zassaresa, roba piccola, voglio incominciare così. Poi piano. Quando arrivi di là, cosa più grossa. Ho capito, ha giù compreso. E io c'ho un amico che ogni tanto va a fare teatro e lo fanno commedie, compreso. E mi ha detto che magari vengono quando facciano queste commedie, perché lui fa tipo il ruolo tipo di un uomo anziano da Sarisu, che è di Cutendi, e... Ed è bello mia, che me l'ha fatti vedere, mi dico sì, me li ha fatti ascoltare le scenette. Però Matteo signore, devi sempre agattare qualcuno che ti togli una mano, un colpo mai entrare, invece no, non c'è più nessuno, sono tutti i gatti baraffari sui caglienti. Oh, ma io ho visto travaglio già un po', quindi sono avvantaggiato. Il problema è che se tu ti vuoi a travagliare così, a fine anno ti massacrano il tasse. Devi guadagnare e punire a parte, guadagnare e punire a parte. Ho capito, ho capito. Oh, e se no, tu fai lo babysitter, tanto sì, con Gabrielino, sacudi a tre lui e ti vai bagabè. Ma manco no. Così ti va a tenere la luce in vita tutta la vita. Manco no, manco qua, se no ti mando in ginocchio. Gioco già prende tanto. Già ti comprendo, già ti comprendo. Però purtroppo siamo in una società dove tutti sono tipo, come ti dici, tutti segreti sono, tutti segreti e buh. La bagaffa. Una società di fuori il gabbo. Ava, Marrizza, a su sono arrivato uno di questi egiziani, magredini, cosa è? Ma quando mai io non ho di notte ci devo venire a camminare, una rubuggio, che è una nuda, che è una giubbottina di frangenti, in una strada ne passano i 200 mila macchine, e da poi nell'anno morto la ricca che ne l'hanno pigiato, e l'accusa è di questo che ne l'ha pigiato, ma io, cazzo, tu un altro mondo sta anche sul cazzo del rettilineo, vanno a cacchino. Ma carità, ma la colpa dell'autista, così. Allora, l'hanno dato un coso, l'hanno arrestato un omicidio colposo. Ma quando mai tu in ghibi, in questa strada devi far permettere a questi bizzini di colore, eppure uno che non so di colore, che so, è di chiamare il risorsia, che in ghibi è una specie di coso, ne portano in caienti, no? Padrumia, ridarsi una drumia, magna, dinà, botti, pantaloni, telefono e tutto. E poi da via di notti, cazzo di idea, riguardo di Manzano, cazzo di Nibigia, nella colpa della macchina che ti ha pigiato, ma io non lo comprendo. Ah, va, vediamo cosa ne ci ha fatto, era una polemica in internet, o io. Fa carità, non vuole bici, non vuole. Fa carità. Vedo che anche ti dateni tutto e se tu vai a chiedere un sussidio, un coso, un aiuto, un bacchino, vadino, che la vai e ti dici, ma lei può andare a lavorare in campagna, si compra il zap e vi vecchia di là, vi vecchia. Io da voi fa, ma ti dà da balla però me, non così no. È tutta colpa del governo, io lo so, così figlia Mattesi Gastò, la colpa è del governo che ha fatto troppi gasini e di disegni che non so come, tutti i fascisti sono questi del governo. Ora lasciato a me mi hanno raccontato l'anziani è tipo un nonno che quando vede a Mussolini da sializzare a tutti e rubare non dovia mai manca nessuno da che si abbassi, da poi dalla Trabassi era una storia personale di politica era. Però a livello di travaglio è Rugosa ha detto che la gente dovia stare bene, si dovia ne mangiare tutti. Sì, non è vero, a carità, cioè, ma non lo vedi come hanno ridotto l'Italia con gli italiani di mezza, cioè, ma ci rendiamo conto come stanno fatto la Fiat, cioè, che mano dei francesi, cioè, mamma mia, qua. Ma solo a pensarvi qua, mi viene la caramara, mi viene. Cioè hanno arruinato un travaglio, hanno arruinato. Per carità, chi ci vuole il capo, che non vengono arrestato e fucilato un muro. arruinato, quanto poi è arruinato, cioè la Fiat non è più Fiat, c'è un motore Peugeot, è tutta fatta fuori d'Italia, ma dove siamo? Non mi gioco, ma allora se tipo la Ferrero, da voi cosa vira, che si tira un caffè, l'altro fra, sono venduti tutto, in Italia non c'è più nulla, sono venduti tutto, è una cosa incredibile, cioè noi eravamo i migliori produttori di beni alimentari, è rimasto qualche cosa, però alla fine il governo l'ha fatto venire tutto a tutti, a chi ridassi erano i gruppi, e quindi la gente non farà vagiare più gli imprenditori. L'unico che ha fatto qualche cosa in anni prima fai da domani, che l'era Berlusconi, io quando era Berlusconi che ha cominciato che la gente scia e pindia ne era lo travaglio, e alla fine adesso l'hanno condannato a chi viaggia nei femmini. Ma ne sei mandato? E chissà chi fai avanti invece? È tutta canta fascista, tutta tira da polvere di stelle, tasse qui, tasse là, benzina, il cuore mio caro, il pane che non se ne viene per azzica, tu buscavare un chilo, e tutte le cose che vai a comprare per la casa ci vuole un patrimonio. E come fa uno se ha, come se te, un figliolo, una casa e ha dei bagassi luzzi, Eva e altre cose? Non si può andare da un attimo così. Una bomba in busciacca a tutti a chi la roba di chi vuole pigliare e considerata in carriera ognuno canto finne ma sono una tavola rotonda sono una tavola rotonda cioè sono un bicchio di lato a voi a me fate vedere si dà della colpa e tu cosa hai fatto? Non hai fatto nulla chi ti dà della colpa a chi ti dà della colpa che l'altro? No, non si compra di più nulla, pensa che no, l'Italia è allo sfascio, ma carità, troppe cose sbagliate, no, non c'è l'iniziativa, e i giovani anche, si sta fuggendo i giovani, perché no, non c'è un futuro, non c'è. Certo, a chi? Quando verrà era diverso, invece avanti con un sacco di cose, se non si rompe di tomate, se non va in cutti, e lavoro no, non ce n'è, perché le tasse e tutti quei negozietti alimentari che vedono una volta, quando eravamo un po' più pizzini noi, e si uscì da casa e ti dice andiamo e pigliami i rubani, vai e pigliami i battiti di pulli di gazzosa, un'anciata. Avanti devi uscire al supermercato ed è un casino, devi farti la via, devi vagare, devi ballare. E hanno ucciso la società che così non andava più bene, è tutta una cosa, come ti si dice, robotizzata, tutta una cosa industriale. E poi siamo tutti controllati, non puoi andare più a lungo, a meno che me non vai a qualche macchina che non è di generazione ultimamente e devi andare senza telefoni ai luoghi, anche se non ne sono 20 anni a cagare queste macchine cadenti. Cioè ma io, come la famiglia nel bosco, ma cosa la famiglia nel bosco? Alla fine i bizzini venivano pigliati eccetera, a chi viveva nei guribani isolari erano i baraffari suoi e quindi non pagavano tasse e l'Italia non le biazia, se tu vivi in Italia devi pagare i tassi, non hai compreso? E avanti non le gioco, non c'è un casino nido con questi bizzini, ma quando mai devi indicogliare una famiglia due e questi bizzini da voi alla fine venivano i pigliani ma da voi magari della gente che vale di nada, ma io avevo pigliato un fucile a un po' vedere da tutti i canti come sei tu però in Chivi per puro da cuccia bella storia non è esattamente come ti si dice non è così a che tu non puoi obbligare a tuoi figli di seguire la tua idea. lavorano in Italia, i bambini devono andare a scuola, devono essere istruiti, devono lavarsi, avere delle cose come si deve e tutto quanto. E lì un poco, cioè, non è così esattamente, bisogna guardare l'altra faccia di cosa hanno combinato questi. Sì, no, non è tutto oro quello che brilla. Bisogna cucciare bene le discorsi, Bruno. Ehi, ma se la mamma era maestra di scuola che li istruiva a una addirittura, da poi veniva a Badini un'altra amica che faceva Badini storia e si cose. Alla valle li lavava chi leva la via, alla luce avevano i pannelli solari, a magna magnavano bene. Va via negli scavizza di più da noma di dimmo che ma chi li ringari se ne accudini tutti in altri binghino c'è cosa, ma chi a cura rimandano a chi si bittini, non rimandano a cura si bittini, rimandano a fulare mandano, e questi che ce ne sono andati a bittani sireni in un bosco ed erano tutti tranquilli e sireni, va via nei burro riaggini e l'animale bappo dei campani. E tu fai una cosa del genere a questa famiglia prima di Natale, li fai un non andava bene. Abbiamo dovuto discutere prima a vedere, e se non era più detto, vedi una cosa, qua non si può abitare in queste condizioni, hanno dei bini da ne di unti, punto. Ma tu lo sai cosa la bocca che ha fatto traboccare il vaso, cosa è? Che chi si è rimaneato dei cucumetti avvelenati, ha rimaneato, sono finiti tutti intossicati, Padre, Figlio e Spirito Santo, siccome le cannule, le cose, passava lì la vita, cazzo non vorrei assolutamente a punire queste cose, ma cosa erano in plastica, ti pare un raggio, se non ti avessi salvato la vita, erano stati tutti morti, erano stati, non la sapevi questa storia? Più o meno sì, ma è una cosa che chi sa capiteggia, agano conosci il buco medio, va a dire queste cose e funghi, se no, per esempio, io non ci sono mai andato perché non li conosco e non ne raccolgo, preferisco comprarmeli perché so che sono così sicuro, però lì è una questione, ma stessi che è una scelta loro. È capitato che hanno fatto questi funghi e li hanno mangiati e li ha fatto male e li hanno salvati, come hai detto tu, però una volta che li hai salvati tutta canta sta polemica che hanno fatto, bastava dire così non si può vivere, andatevene da dove siete arrivati qua e vi arrangiate con il vostro stato, con il vostro territorio, perché noi non vogliamo nessun tipo di problema. Invece li hanno presi i bambini, li hanno portati in questo grazie di Lugosi, a Edi non li facevano i vedini, a Vanni li vuole bigliare a patti a potestà, e gira gli da ridati nell'adozione al Saienti, e gli tibissini sono girando lo debito. Non va bene, per quanto riguarda la mia idea, e poi ognuno ha le sue idee, giustamente. Andiamo che ti dica, adesso c'è il madrodra. Allora, dice a chi non accosta nemmeno, via, anda, buoni casuri e passi, deve essere caduto a dormire, si è atteso tutto canto. Non è così, no, bisogna avere un piatto elettrico di merda. Un marciano si è appigliato un fuoco. Si dice che c'è intasato un filtro particolato. Ma poi c'è intasato un filtro particolato. E allora buco di buoni casuri e buoni casuri agricoli. Non è così, no, che funziona la cosa. Purtroppo io, cioè, sono dei pericoli, sono quelle cazzo di cose, anche per le macchine, se ne ordini i motori, se si ti intasa nel dubbio va per un casino. Ma sono queste sono cose che pone tutti di una bocca, una mucca di babba, Badini. A chi? A base incendiato questo dramma, Cuscini per esempio, perché magari è un malfunzionamento e vi buonasse tante cose. Però non puoi poverini che alla fine qui lì ogni anno se ne brucia uno, più di uno quando andiamo a scuola. Ma che cazzo sto dicendo? È la prima volta che ho visto io questo dramma che si è incendiato a Sassari. Magari può essere successo 10 anni fa, un'altra volta, ma sono cose che purtroppo possono succedere, come se può succedere pure a una macchina, si rifaccia lo tubo della benzina, come se può essere una banda, come si vira nelle macchine di prima, e si attende, e si allumma. Ma sono tutti inconvenienti, tipo un esempio di tutti lì. Ma non è che uno deve fare un altro. Solo i vari giornalisti di piace a fare i danni, a fare terrorismo mediatico. E basta. Sì, no, è assai che è successo. Invece la bara, non si è atteso come il tedesco, però è successo da poco, pure che uno è come sta da ci fumo. Ah, sì, mi arrivi da una chiamata, sto corrispondendo a chi. Che bara. Che bara. Vabbè, Claudio. Ecco chi stai parlando a quest'ora. Ma amico di Giorso. No, amico di Giorso c'è. E già lo sento, sì. Lo sento anche bene. È lui che lo mi accoppia. Come sta uscendo? Tutto bene? La bomba, sì. Sono contento anche ancora che sia radio funziona, I guess. Sono sempre ferme, va bene, va. Secondo me questo qua tu ce l'hai da un mucchio di anni, ce l'hai da un sacco di anni, perché è sempre lo stesso stacco, secondo me non c'è molti anni. C'è esattamente 12 anni ho questa radio, 12 anni, e non l'ho mai fatto nulla. E allora è sempre lì. Perché funziona bene, la roba va bene, stazionarie, vabbè, vero, ma così muovi. Va bene, dai, mi sono entrato a spegnere, che te la gira atteso, ho sentito un cane. Me ne vado a vedermi la televisione. Quindi la radio ha detto che è buona, ecco, così è. Buonissima. Cosa che ti invia oggi da tutto il ma io ti sento tutta la città, ti sento, non ne ho problemi di sentirti anche con la macchina. Anche io ti sentivo quando eri a Rocca e Paccata, S5 arrivavi, ma va bene l'impianto, tanto lascialo stare così. Scappa, è buono, caro. Io lo credo che è buono, non è perché non deve essere buono, ha voglia che è buono, alla grande. Che me ne vado a guardarmi la TV, salutami a San Pedro, tanto non mi intendi, e ci sentiamo domani, ciao Antonio. Ciao, ci sentiamo. Allora domani mi burro a casa, me ne farò un po' da plattanona, va a Napoli. Fai bene, esci, non stare a casa, esci. Eia. Ok, qua. Oi. Antenna che va via Babbo, cioè prima e si è dormita in macchina, chissà ma avrà minimo più di 15 anni. Ma vedi, qual è il problema? Che quando le cose funzionano bene, bisogna usarle. Hai fatto aggiunto, no, quella rimane, è che tu non puoi comparare, che è pieno il magazzino di antenne. Ho trovato una basetta, ne ho anche un'altra mineo, che ci assomiglia tipo una fuori, ti sei presente quella del VHF di una volta, quella nera, con cosa spedalato, quella che c'era nella panda gialla, c'ho anche quella ciò. Ehi, quella ce l'ho anche io, però senza spirale, io c'ho quella diretta, la frusa nera vera e propria, esatto, buon passantenna. Ce l'ho, io c'ho tutto conservato della macchina, capito mi hai. Va bene amico mio, dai, ci aggiorniamo, ciao, buonanotte, saluto tutti. Ciao.